fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta radio del sabato sera. È arrivato il momento, Jimmy, che tanto aspettavi con impazienza, vero? Vero, Jimmy? Aspettavo tantissimo questo momento. Grande, grande. È passata una settimana dall'intervista della Fiorella. Ricordiamo che era Fiorella? È la mia compagna, è la mia futura moglie. La tua futura moglie. È la donna che amo più di tutti nella mia vita. Grande Jimmy, grande. Sei uno dei pochi che ha detto queste cose in radio. Di solito tutti gli domando: ma perché ti sposi? Perché... E tutti rimangono fermi. Invece tu l'hai detto subito. Deciso subito. Non hai dubbi. È ciò che merita una donna così. Grande. È fantastica, grande. Mi ha reso la vita fantastica. Che roba. Allora, sei tutto quello che le donne vorrebbero sentirsi dire in questo momento, giusto? E insomma, ho anche i miei difetti. Vabbè, come tutti, molto ben nascosti, però ce li ho. Li ha molto ben nascosti, però, visto. Poi abbiamo qui il tuo futuro fedele... cognato. Come ti chiami? Maurizio. Venite, ragazzi, che non voglio... Marca Monica. Non si può dire il paese, meglio di no? Sì, Ceto. Niardo. Ah, ok, sempre la parte economica. Molto vicini. È una ragazza fortunata, Fiorella. È fortunata che Fiorella, sì, certo, che cavolo, cioè trovare un uomo che dice queste cose così è rarissimo. Di solito i maschi tutti, sì, vabbè, dai, mi sposo, ma costretto, mi ha minacciato, dico di là. Invece lui contentissimo. Anzi, non avrei mai sperato che sarebbe arrivato questo momento nella mia vita. E hanno già anche un bellissimo bambino che si chiama Mattia. Sì. Un salutissimo a Mattia, perché è il più bravo del mondo. Ma cavolo, ma che è fantastico, Jimmy. Cioè, guarda che chi si intervista in radio dice: no, voglio sposarlo io, Jimmy. Guarda, devi fare la svelta. Perché non sono più disponibile. Bravo. Continua a azzeccarle tutte, è una cosa incredibile. Fiorella. Preparate a casa. Ecco, ricordiamo che Fiorella è la ragazza dell'intervista di settimana scorsa. Sì. Quella con la banana molla in mano, giusto? Era quella? Sì. Ecco, ogni riferimento puramente casuale, ecco, diciamo così. Si vede che è abituata così. No, Jimmy è troppo bravo, troppo buono, cioè, non si difende, non va bene. Dicono che sia contenta e gode. Che gli hanno detto un saluto alla sposa, lei cosa ha detto? Ciao Jimmy. Io farò così, un saluto allo sposo. Ciao Fiori, eccomi. Ti amo. Viva gli sposi. Grandissimi. E poi, avete guardato l'intervista della Fiorella, avete visto tutto? Sì. Vi ricordate qualche altro particolare dell'intervista o no? No, c'erano le due ragazze prima che le intervistavano chiedendo che mi sei, Miss Rompicoglioni. Ah, è vero. Perché è un suo difetto, ce l'ha un difetto Fiorella? E sono tutte Miss Rompicoglioni. Ah, tutte. In generale. Nessuna esclusa. Vedi, adesso facciamo un attimino di chiarezza. Però non potremmo fare a meno di loro, giusto? Sì, vai a cadere sempre lì, però un casino. Mentre un tuo difetto, Jimmy? C'ho sempre ragione. Il tuo difetto è che hai sempre ragione. Ecco, giustamente. Sempre. Quei difetti lì, Jimmy, fantastico. Confermi il testimone. È una bella battaglia. Sì. È una bella hanno battaglia la voce, la mia compagna. Hanno la voce alta. Lui e la sua futura moglie. A pranzo, a cena, quando ci troviamo, è un casino. Ah, urlano? Sì, ma sì. Tra di loro o... Sì, tra di loro. Ah, ci parlano... Hanno ragione sia uno che l'altro, quindi voce alta e avanti, guerra. Ah, proprio così, cioè il loro modo... Ma animo... Di volersi bene, il nostro modo di volersi bene. Si mandano a cagare con amore. Così, proprio... Vai a cagare, amore. Ecco, per tutta la valle riecheggia questa cosa. Fantastico. Amore, ma vaffanculo. Ecco, mi piaceva questo proprio. Questa sottolineatura è amore, è proprio amore sincero. Si vede senza deviazioni, proprio dritto. Ok, ma Jimmy, ma come hai fatto a chiedere di sposarti? Racconti? Ho organizzato un bel weekend a Montisola. L'hai portata a Montisola? L'ho portata a Montisola, era il nostro anniversario di matrimonio. Ok, portata a Montisola e il sabato sera mi sono messo in ginocchio e gliel'ho chiesto. E lei non se lo aspettava? No, non se lo aspettava. E hai tirato fuori il gigillino? E lei è andata in brodo di gigiole. Eri emozionato come adesso a parlare in radio? Sì, abbastanza. Ah, uguale, proprio la bocca secca. Sapevo che lei se lo aspettava, o perlomeno lo voleva. però non avrebbe mai pensato, perché era anche vicino a un nostro anniversario, quindi non sapeva bene cosa si festeggiava, se era un anniversario, se era una proposta di matrimonio, cos'altro era. Ed è arrivata dopo quanti anni di fidanzamento? Sei. Al sesto anno è ceduto, ha detto: oh, ma la faccio contenta. Siamo al passo. Ma abbiamo progettato questo matrimonio al primo anno che ci siamo messi insieme. Ah, proprio dal primo anno? Perché abbiamo visto il primo sabato disponibile da quando ci siamo messi insieme, era nel 2019. Però. E abbiamo mantenuto la promessa. Però, dopo sei anni. Bravissimo. Insomma, tu testimone c'eri? Testimoni tutto? È stata tutta così la storia. E quando l'hai conosciuta invece, come hai fatto ad andare a conoscerla? L'ho conosciuta tramite amicizie. Ah, l'amico. E tra l'altro, la prima sera che l'ho invitata, mi ha anche dato bu. Ah, ti ha tirato il bidone? Sì, ti ha tirato il bidone, è arrivata tipo 4 ore dopo. Ah, però è arrivata alla fine. Avevo appuntamento alle 8, è arrivata a mezzanotte. Giustamente, ecco. Non male. C'era traffico a Ceto, eh. E da quella sera lì l'ho portata a casa e non se n'è più andata. Ah, non sei più andata? Non se n'è più andata. Ma è scattato il primo bacio? O sì. Proprio la sera stessa? La sera stessa. Ah, proprio hai detto: sei in ritardo, adesso per punizione ti tiro un limone. Ecco, così. Giusto. Una cosa. Da lì non l'ho più cacciata via da casa. Tu immagino, ma anche lei non se n'è più andata, no, proprio. Non se n'è più andata, no. La tasca da lì è scoppiato un amore grazie a 4 ore di fuso orario. Ecco. Che bello. Che bello. Lo vedo felice, è bellissimo. È deciso. E il testimone invece, tu sei fidanzato, sposato? Sposato. Ah, quindi con la sorella della futura. Ah, proprio. Ah, per quello vi vedete sempre, allora fate le cene in compagnia, tutte queste cose. Sì, quindi vi conoscete benissimo. I vari discorsi che fanno e tutto. Quindi tu li senti anche dalla casa in parte, sono vicini? Sì, l'uno per l'altra. Siamo lontani, ma ci diamo cosa nel sopportare le due sorelle, perché tutte e due hanno più o meno lo stesso carattere. Deciso e imponente. Si impongono. Noi ormai ci consoliamo a vicenda. E voi disperati dite: vabbè, dai, ci sono presi le sorelle. Le sorelle, voi. Ce le teniamo. Bello, così la spalla su cui, sì. Così. Ecco. Bello, andiamo anche d'accordo. È una bellissima cosa andare d'accordo con i cognati. Fondamentale. Cioè, ci aiuta, stai in compagnia. È un rapporto bellissimo. Andate anche in vacanza assieme, magari? Sì. L'anno scorso siamo andati. Sardegna, l'anno scorso abbiamo fatto. Ma proprio le vacanze in compagnia. Già dopo 3 giorni eravamo pentiti di questo, ma perché sentivamo le voci di Gini. Perché io e Fiorella siamo molto casinisti nel parlare. Invece loro sono molto più riservati. Sono più tranquilli. No, noi invece lo sapeva tutto il ghiero, quello che succedeva anche a quello che succedeva nel vostro appartamento. Sì, era bello. Era di dominio pubblico. È bello così. Bello, bravi. Però siamo sinceri, è quella la cosa più importante. È importante, bravo Jimmy. La sincerità, bravo. È la cosa più importante in un rapporto. Bravo. Ascoltate, prendete appunti da Jimmy, amici da casa. Purtroppo, ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, quindi sono volati 8 minuti, erano 5, sono andati 8. Ti sei reso conto, Jimmy? No, ormai Jimmy lavora in radio, è sua a radio. Che radio balla? Radio number one, così. Ormai vatti a proporre, Jimmy, che sei lanciatissimo. Una nuova avventura nella mia vita. Fai una rubrica sull'amore, l'amore di Jimmy, va bene? Ecco, così fai l'insegnante, insegna tanti ometti come si fa da mano. Vivrebbe in questo mondo di amore, tanto. Bravo. Tantissimo. Ok, salutiamo il cognato. Ciao a tutti. Come ti chiami? Maurizio. E un saluto da Jimmy. Ciao Fiorella. Ciao. Ciao Fiori, ti amo. Ciao.